allora, perché, e poi vabbè, diciamo la verità, che assapori molto di più la roba da mangiare, tanto è vero che ho preso un po' di peso. E vabbè, assaporiamo, vabbè, giustamente, perché tenere sempre a mente un buco, più consumo di legna, nessuno, no, non me li gravigli, buco. Non è che non mi piaceva più, però lo sapore lo sento di più adesso. Anche io, è vero, è vero. Senti più i sapori, gli odori, tutto. E poi te la gusti di più la roba da mangiare, capito? È vero, tu pensa che ho mollato le sigarette, ne avevo comprato il CBR 600 RR nuovo dal concessionario. Dice 10.900 euro, quasi 11.000 euro. Ma tu vai. No, io non ho già comprato nulla invece. Solo che sto... devo finire di pagarlo, voglio dire, non sono più riuscito a conservarmi niente. Vabbè, è che sono un po' periodi strani, a conservare le cose adesso. Sì, non ce la fa, non ce la fa, anche perché sono altre priorità, anche... È quello il casino. Ma comunque, sta a posto, state andando avanti? Sì, adesso sto andando avanti, adesso... Solo questa settimana, la prossima, ricoverano al mio vecchietto, e finalmente mi ha segnato un poco più lungo. Certo. Ma via, però te ne scavo, eh? No, forse come mi sono allontanato, mi capisco. Sì, noi, lo stesso. Forse non andato a mio figlio, c'è lui? Sì, sicuramente non andrà a prendere il punto adesso. Gappa. Vediamo un po', Daniele, ripreso, vai. Daniele, non c'è. Quindi ti devi allontanare, sì? No, sto aspettando perché... forse andrà a prendere, non so, penso di sì comunque. 220 spedito, quello mio, mi ha risposto adesso. Che cosa? Cosa ti ho messo? Quello... la visione. La roba di cavo qua, Ogni tanto innesca? Sì, infatti. Ho detto, in poche parole, quella T 250, 220 spedito lo vuoi. Ho capito, vabbè, ma quello l'avrei accoppiato a questo, ma è già troppo superiore per accoppiarlo alla 525. No, vabbè, quello per fare linea, lo già io. Allora. Sì, comunque ci stavo pensando a fare una cosa del genere in quella... è brutto, mi sembra che mi sto allontanando dall'ambito familiare quando fa una cosa del genere. Cioè lì sarebbe stato tipo un bunker bello, come ben tanto qua. Vabbè, non è che te lo prendi tutto, ma se ti organizzi un angolino lì con una scrivania, con dei ripiani, esce una cosa carina, ma non si allontana dalla famiglia, non sei io adesso. Anzi, forse è meglio, così lo faccio per radio. Vabbè, ma ci vediamo, devo spostare, dai, devo andare a prendere, ci sentiamo dopo, se ci sia. Gappa, ciao a te, ci sentiamo, a dopo, vediamo un po' se rientra Daniele, se non sono qua, va. Avanti, Daniele. Va bene, dai, a dopo. Gappa, ciao. Chi è avanti? Avanti, chi è? Non ti sento. Attenzione, 10. Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, capa. Attenzione, su binario 10, chi è? Io chi? Da Porto Torres, così è. Capa, ti sento un po' basso. Capa. Ehi, bombolo sono, buonasera. Ehi, capa. Come mai sei così bassa stasera? sì che ha migliorato qualcosa. Ciao Lu. E beh, Eugenio! Mi appena rientrato a domo. A domo pat. Dai, un attimino riprendo, prendo subito. Lavoro sì. Ma non sai più quell'antenna che c'avevi prima. Come arrivi così basso? 2 watt. È per un aiutino, no? 747. Segnale non hai proprio da me, non so se da tu ce l'hai, ma da me non è, vabbè io ho lo Smith è un po' secco, capo, no, sì, Santiago 3 qua sei, capito, hai. Un attimino, devo subito. Buonasera, buona, buona. Buonasera Tino. Buonasera, buona, buona. Fuga! Ciao Tino, solo un attimino, riprendo subito, se non cominciamo. Ehi, passaggio, voglio dire. A vedere un attimino se migliori. Vabbè, qua sei Santiago 7, prova a attaccare. Ah, vabbè, pensavo che avevi un aiutino. Buonasera, ciao Antonio. Oh, ciao T, buonasera. Sei una correzione, stavo giocando con un figlio e te, sono entrato un attimo in radio, va bene. Facendo la radio. Questa è buona, no, sono che bei denti chi so, che fare il telefoneggio, invece si è dimenticato di me, cazzo, se vado in cucina non ne piglio più. Che cosa? Le pizze, ritorno dove ero, cazzo, ti sto compigliando la pizza, mi chiede la... No, lo voglio dirmi, cioè, ritorno dove ero, dagli fornitori che me la portavano prima, e via. Non ne piglio più, buh, finito. Bene. Ma io oggi, relax, dopo il pranzo che ho fatto oggi, bisogna... Tenerci le giri la sera, sennò dormiamo male. Sì, tu pensa che io ho mangiato bene oggi. Oh, abbiamo fatto un lungo viaggio, però abbiamo mangiato bene. Mica così, dai. Eugenio, ebbene, non ce lo fai in campo, Eugenio. Vabbè, non fa vita. Sì, adesso che è impegnato, Papà. Uia, io ne sto tornando da Siliqua, ne sto tornando. Minchia che viaggio, porca bestia, cazzo. Vabbè, l'importante è aver passato una bella giornata, dai. Sono da ieri, sono partito ieri e sono arrivato stasera, abbiamo fatto un viaggio, ieri abbiamo fatto un viaggio che non era tra i migliori, oggi lo stesso non è che era super, oioioi. E perché? Cosa è successo per non essere uno dei migliori? Praticamente... dopo Oristano, cavolo, il treno, c'è rimasta una barra che non si apriva, cioè non si chiudeva più. E avevo dovuto 40 minuti, abbiamo dovuto aspettare. 40 minuti, cazzo, lì fermi, che se raffa a raffa siamo arrivati a Siliqua, siamo arrivati a... come si dice, alle 9, più delle 9 siamo arrivati e siamo partiti da Sassari alle 2.20, alle 2.40 siamo partiti. Vabbè, ma era un viaggio di piacere oppure di dovere, nel senso che se tanto andate a fare una visita, oppure un'uscita così? Una visita, un carino. carissimo amico, cioè, siamo sempre, cioè, come si dice, ci portiamo bene, cosa, minchia, ma che viaggio che abbiamo fatto. Siccome sono rotti i pullman, abbiamo dovuto prendere il pullman da qua, cioè siccome ci sono delle rotaie qua che le stanno aggiustando in quel tratto, il pullman da qua, andare a Macomer. Da Macomer siamo partiti per cosa? Per andare a Elmas. Ci siamo fermati all'aeroporto di Elmas, dall'aeroporto di Elmas, lì che c'è la ferrovia, abbiamo preso quello per andare lì a Carbonia, tutta Ciliqua, cioè quelle parti lì. Mamma mia, che viaggio! E sono tornato un poco fa, ho messo piede a casa. L'importante è aver passato una bella giornata, poi Alessio, adesso ti riposi. Capo, ci riposiamo, poi mi faccio una bella doccia, mi faccio anche perché. Abbarugiamo a chi c'ho bagliaccio, mi lumi. Eccolo qua. Hai visto, tu stavi già. Va bene, vai a cenare. Camagliara. Antonio, ci sei. Antonio Bombolino, ci sei. Vabbè già. Ciao Luca. Come va questo microfono? Bene, bene. Bello è. Sta passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, va bene già. Lui ho recuperato di nuovo lo smitter. Buono, buono. Cazzo, è perfetto, eh. No, perfetto, di più. Cazzo, ma non si blocca, mamma mia che palle. Ma è segnale giù? Non c'è bisogno di regolarlo, era già regolato già. Io per un lato devo sempre mettergli la luce nel coso per regolare lo smith. Io domani sono libero già, se vuoi ma devo cercare uno per il typhoon, quello modificato a corsa, che quello lì si blocca. Adesso domani facciamo un video, se lo trovo là, piano piano, come l'hai trovato tu lo trovo anche io. Infatti, ma io l'ho trovato a Sassi, io non me l'hanno regalato. Buono, uguale. Identica a quello che aveva fatto. Per culo. Che bagnata. Io so che quello che aveva fatto era nuovo nuovo, vabbè anche questo è nuovo. Ma la svoltata non ha parecchio che è da dismettere. Buono, buono, meglio. La radio com'è? Forte? Sì, vabbè. Va bene. Sentiamo più tre. Benissimo, bella, bella. C'era Antonio prima. Infatti dovevo andare a un controllo e invece qui ho mandato un messaggio, dove c'era, non l'ho letto. Però già per regolare lo smitter del Cobra bisogna chiedere nei gruppi qual è il trimerino. Vieni, ma non parico che non c'erano tutti, dai. Vabbè. Magari mi mandi il modello, vediamo un po' se riesco a trovarlo io, a farmi dire qual è. Vabbè, vabbè, dai. Adesso vediamo se riusciamo a regolarlo, se no pazienza. Tu mi devi mandare il modello esatto, Cobra e il modello. Oggi io chiedo. Il modello è GT200, Cobra. GT200. Ah, ok. Domani lo scrivo, domani mattina lo scrivo. Adesso no. Adesso un po' c'è appunto la mamma. Sto masticando un pezzo di cioccolato con le nocciole, buono. Buono. Ecco, per avere lo scrivo, è veramente buono già. Veramente ultimo. Buono. Come sto vedendo un pezzettino. E lui oggi è in campagna. Portato i cani, a destra, stava divertendo. Giocata, sei stanca, stanca. Ha cenato. Io ho aggiustato un po' il pelo anche, se è più carina. Stanno in campagna. Non scappa? No, ci sono gli altri cani, c'è la Rocky. Tutti insieme a Stella. Però questa non si è uscita adesso. Ho detto, gioca con loro. Allora, te ne hai più 2 o te ne hai più 3? Il più 3. Ah, bello, quello nero. Via. Vabbè. Comunque già, vero, mi lo smette, se non funziona bene, non c'è molto di balle. Questo qua è perfetto, questo è del 2009. Ah, c'è quello del... No, vabbè, quello del tempo, quello modificato funziona, però non lo vedo fluido, capito? No, non lo vedo, quello che voglio cambiare, anche quello, a parte che non è chiaro, che ce l'avevo prima, non lo so, boh, vabbè, tutto è giallo, forse dalla ricordina, boh. Ah, si vede delle cracche. Vabbè, cracche. Sì, sento roba sotto. Ciao anche a Gianni. Ah, c'ho la radiolina, la radiolina accesa. Capito già. Non si vede bene, è bruttino, dai. Se sono in giardino. Ma com'è? Com'è quello del 2009? Ehi, yeah, uguale. Non sei uscito già. Come non sono uscito? E a tratti ti ho sentito, buonasera ho detto. Ma io ti ho salutato, ho detto buonasera Claudio. E allora non sei uscito, vi trovo portante, ma voce non ne ho sentito. L'ho premuto male il microfono del messo. Metti il lock adesso, così ormai non mi sentite. Metti il lock e via. Il lock chiuso con le tane più tre, cosa? Abbiato che fila è abbastanza semplice, invece l'MVP5 tocca a trovare la combinazione. Buonasera anche a lì, avanti. Ciao, ciao, ciao, sono entrato solo a salutarvi, dai che sto... non posso stare in radio, ce la fare. Infatti c'ho questo baracchino, già mi sento lo stesso. Ciao Gianni, sì, va bene la radio, ottima. Non ti preoccupare, bella corposa, già va bene, ma è saputo, non l'ha mai sentito, tale più tre con le Galaxy, vanno benissimo. Ciao anche a te Eugenio, non so se mi ascolti. Ti ascolto, ma non sono a Sassari, sono in campagna, quindi ti ascolto lo stesso. Santiago 8, Radio 5, non c'è problema. Io sto andando con 4 watt e quindi no, microfono normale, la radio l'Elbex 4082. Ok, dai, vi saluto che c'ho da fare, dai. Ci sentiamo in altre occasioni, vi sto seguendo in lontananza, vi sto ascoltando. Non mancano mai le marette, come si dice, ma comunque dai, già va bene, compenso. Ciao Gianni, ciao Luca, ciao Eugenio, ci sentiamo alle prossime. Avanti Luca. Ciao Claudio, buonanotte, alla prossima. Avanti già. Ciao Claudio, buonanotte e buon quelli che ci ascolta, se lo fai, dai. Ma mi ha detto se sto uscendo bene di radio, non ti ho capito almeno. Sì, sì, sta uscendo bene, un po' acuta. Molti acuti, ma anche dei bassi, ma è normale che sia così, anche il mio fa così, molto acuti, tienilo, non lo tenere molto alto per quello, ma la modulazione è abbastanza chiara, va bene, ok? Cabagaba. Ciao, ciao, buona carica, avanti. Però schiaccialo bene o se no fa dalle una pulitina alle lamelle già, perché non si è uscito di nuovo. Adesso lo premo bene, vediamo un pochettino. Probabilmente perché lo sfioro, io sono abitato con l'altro e lo sfioro solo, capito? No, no, quello devi schiacciare bene, se schiacci il PTT si deve sentire proprio l'aggancio bene, se no usa il lock come faccio io. Io adesso vabbè li ho messi, sto usando solo questa radio perché quella scampola che ho lasciato, le altre sono tutte dentro le scatole, ancora non posso togliere niente perché c'è un mare di polvere, un mare di casino qua, dai. Comunque Luca, mi senti bene a proposito che ti ho sentito commentare con Roberto Quadrato in Emiliano sul Tumaro quando vino di Vattuto la campagna che si ne dighi di ridi, visto che siamo uno di fronte all'altro. Mi ascolti bene? Sì, con 4 watt. Ho voglia, sta segnando 9 qua, sai, perché questo qua è proprio quello da regolare. 9 più 20 Radio 5, buonasera. Ciao Bombolino. Ciao Antonio, anche a te, altrettanto 9 più 20 Radio 5, arrivi anche tu, dai, non c'è problema. Un pochino più forte Gianni, è più aperto rispetto a te, è quasi sul 3, ma io sui baracchini non è che ci faccio molto affidamento, io sono abituato alle radio un po' più professionali, diciamo, dai. sul lunedì parte il 430, quindi appena arrivo al 430 poi lo piazzo e vediamo un po'. Tenete conto che io ho l'antenna a 2 metri di altezza, 2 metri, c'è un palo da 2 metri in un secchio di calcestruzzo e due tiranti per mantenerla, quindi l'antenna è a terra. Quando poi farò il lavoro fatto come cristiani ci sentiremo molto molto meglio e qualcuno si spaventa forte. Dai, un abbraccio a tutti, buon proseguo di quel show, devo andare a cenare ancora e poi continuare a lavorare qua. Kkk, mi ha fatto piacere sentirti. Ok, ci sentiamo la prossima volta già. Io ti saluto di nuovo Claudio. Perché di fronte a Roberto, scusa, ti faccio questa domanda, perché dovessi avvicinare lui? No, siamo di fronte. Siamo di fronte. Voi immaginate che io sono a circa 400 metri di altezza rispetto a un centinaio di metri di altezza rispetto a qua, e come da qua vedo Sassari, da là vedo tutto, tutto, compreso sino alla punta di Castel Sardo, tutto. Come? No, io ti sento però non riesco a capire manco chi sei, perché sei talmente saturo che non ho capito. Segnale fondo scala qua. Addirittura saturo. Ah, scusami, ero. È vero, hai ragione Claudio, scusami. Stavo usando la radio senza. Con il fatto della radio sua, diciamo, dai. Sei fondo scala T. Un segnalone alla grande, ma non ho dubbi con l'atterroce. E quella zona lì non ho dubbi che io ho l'antenna a 2 metri di altezza, sì, fondo scala pieno, praticamente sei oltre il più, quasi sullo zero, mentre Gianni è sul 3 e Luca è sul più, come Antonio. Va bene, arrivate magnificamente bene, ma queste prove le avevo già fatte, quindi non ho dubbi, non è che le certezze arrivano dopo, quando ho terminato di uscire da questo manicomio. Perché tra scatole, scatolette, muratori e cazzi e mazzi non ne buco bene. Speriamo il prima possibile, perché mi sto già esaurendo. Comunque, andiamo avanti, dai, siccome dormo qua stanotte, perché non ho staccato il cancello per mettere la guida per il motore elettrico e quindi devo stare qua stanotte. Ok, dai, vi saluto tutti, vado a mangiare un boccone, se ci siete a dopo, altrimenti alla prossimina. Vai Gianni, comunque Gianni, arrivi magnificamente bene, ok? Non ti creare problemi, il microfono va bene, ti ho sentito appunto stasera in lontananza che avete fatto appunto il cambio di pannelli e sopraelevate con quella persona lì, e quindi già vi stavo seguendo, dai, ok? Va benissimo il microfono. Il cambio di pannelli l'ho fatto perché mi sta arrivando un apparecchio e devo fare lo spazio, capito? Ho ordinato un bel apparecchio. Bene, bene, sono contento. Ordina sempre e non ti preoccupare. Io basta quello che ho e basta così. Non posso in questo momento mettermi a pensare alle radio, perché ho altre cose a cui pensare molto più costose del radio. Poi quando sarò messo, quando ci sarà tutto in ordine, vediamo, quello che manca rimettiamo in sesto, ma non c'è problema. Lunedì mi spediscono il 430, le altre radio sono tutte già conservate, quelle insomma professionali, poi vediamo. Per il momento no, per la 27 non aggiungo niente Gianni, no, non mi interessa, quello che ho e quello che non ho rimane senza avere, sono abbastanza contento di quello che ho. Dai, auguri allora per la nuova radio e ci sentiamo, ciao ciao. Aspetta, sì, anche io ti stavo ascoltando già, è migliorato tantissimo la stasera, guardami così Cla, con il fatto della radio, senza niente. Così sei sul più del 30. Anda beh, allora, a voglia. Sei fortissimo, ti. Stai. Cioè sappi che sono proprio di fronte a te. Se tu esci nel piazzale, punta una pila in alto e dove vedi il ripetitore a raio sono 50 metri appena appena attaccato sotto. Pure io non è che ce l'ho tanto lontano, no? In alto dove? Destra, sinistra? va bene, dai, sono contento. E beh, è lì da 4 anni quella casa, quindi è ora di abitarla. 50 metri a destra del ripetitore, quello di cemento armato praticamente, sono lì. 420 metri a livello del mare, qua siamo a 370, quindi. vabbè, vabbè, io non so, non mi sono messo nel misurare niente, non so neanche quanti metri avevo del male su moglie, ma credo di essere molto più basso di te. Eh beh, tu sei nella butti butti, è chiaro, sei più basso. Guarda, nel canale 15 stamattina che ho sentito un carissimo amico che da tanto non lo sentivo, con questa radio, con questi watt che sono 3,5, modulati saranno 6, 5, 6, arrivo 9 più 20, con l'antenna a 2 metri d'altezza. Va bene. Minimo qua arrivi quando lo metti a posto tutto oltre 9,40. Ora ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno. Ehi, ti stavo dicendo, minimo qua, quando metti tutto a posto, minimo ne arrivi oltre 9,40. Sicuro. Stavo ascoltando Franco, voi immaginatevi che a me Franco di sorso, a Carbonati mi arrivava a Santiago 8, quasi 9 a volte. L'ho sentito, mi sono spaventato, non sono entrato, ma mi arriva 9 più 15 quasi. Franco chi? Franco di Sorso, non Franco California, in Franco California c'è il tuo segnale, 9 più 20. Quindi appena che metti tutto a posto, vorrei che aumenta tutto. Senza un bel dubbio. Va bene, dai, non cambia Gianni, vi lascio, che qua si stanno già cazzando. Infatti qualcuno mi dice da lontano, cazzo d'ora che ruba l'acchino ci. Va bene, hanno ragione, dai. Vi saluto, ciao a tutti, buonanotte, le prossime, vai Gianni. Chi è che ha parlato? Non ho capito niente, tutto a rumore, inneschi, chi era? Mi sembrava Gianni, forse mi sembrava Gianni. Hai qualche problema? Non so se era Gianni, se stava parlando con me non ho capito niente Gianni, eri tutto inneschi, a fischi, fischi e fiaschi. Dai, vi saluto ragazzi, ciao, grazie per avermi fatto entrare, buonanotte a tutti. Cappa, non c'è problema qua, sei sempre il benvenuto. Mi sembrava lui, mi sembrava. Sei tu? Ciao Tino, poi ci aggiorniamo telefonicamente, ciao. Ciao. Ehi, mi sembrava lui o ti, vero? Beh, io sinceramente lo stesso non ho capito cosa stava dicendo, quindi non posso dire se lui o meno, perché era pieno di inneschi, pieno di tutte cose. Chissà che è successo. Guarda, cosa sta succedendo qua? Ora già. No, c'è qualcosa che non va, ma la batteria nuova di quel microfono. Oh, aspetta, guarda. È sempre così. No, ma poco fa stavo uscendo bene, adesso sei barattoloso, tutto pieno di fischi, inneschi, non so cosa hai toccato. Ho solo la batteria scarica. Ma non lo so, questo deve vedere lui se l'ha messa nuova, se è scarica, se però. Ha cambiato anche la timbrica di modulazione, è tutta metallica, tutta fischi, non lo so. Dai, vi saluto, ciao. Ciao. Ehi, Gianni, guarda la batteria a vedere se è a posto. Magari potrebbe essere quella. Vabbè ragazzi, io vi mollo, che adesso facciamo carica, dai, quindi. Non so se più tardi rientro, dai, quindi ritenete tutti quanti lo stato, ok? Ciao, buonanotte a tutti. Sono capricci. Mi hai detto, sentito poco fa che ti ha fatto un bel viaggio, e va bene. Poi domani vado anche là fuori, devi andare, no? Capo. Ma com'è che sono giunto a casa, va? Uiuia. Un viaggio tremendo è stato, anche perché sono messi le complicazioni. Vabbè. In treno sei andato? Capo. Siccome ci sono problemi ai binari, da qua sono partito in treno, cioè in pullman volevo dire, e siamo arrivati a Macomer, da Macomer sono partito a Cagliari, sono arrivato all'aeroporto di Elmas. Dall'aeroporto di Elmas devo prendere un altro treno per scendere a Siriqua, cioè ho preso il treno di quello che va a Carbonia, a Utta, quel treno lì. Una giornata diversa. E da ieri mi stiamo viaggiando. Cazzo, mi ha fatto aspettare, è successo un problema al treno, 45 minuti ferme. È una sbarra. Sì, addirittura, cazzo. Eia, sono arrivato lì alle 9 di sera. Hai dormito lì? Sì, ho dormito lì, dalle 2.40 che siamo partiti da Sassari. Ma no, capito. Sei stato bene a quanto pare. Sì, no, poi là già siamo stati bene, abbiamo mangiato tutte le cose, cioè, già ci siamo divertiti. Il viaggio era tremendo. Ma una cosa organizzata cos'era? Io e la mia compagna. Boh. Hai fatto un viaggio cose belle. Noi adesso appena iniziare il periodo bello iniziamo ad andare in macchina o marina, boh, non so. Adesso vediamo. Ci spostiamo da qualche parte così. No, non molto lontano, perché la macchina lì ha i suoi anni e non conviene andare tipo da una Cagliari così o possiamo scendere a Olbia. Ma se rimaniamo magari a pochi km da qua è meglio, no? Sì, vabbè, cosa entra? Chi non anda la macchina? E se ti biglio un treno, vai all'avventura. Usiamo mi piace, trovando in macchina, so così dove andare, devo portare roba da mangiare, me la carico in macchina, cosa fa in treno, non fa per me. Forse mai lo faceva per me 20 anni fa, 30 anni fa. Cappa, no, a me già piace pure l'avventura, Devi stare attento, devi stare, non devi perdere il treno. Tu già sei giovane, tu. Che altro sono avventure sono lo. Beh, non lo so. No, già abbiamo già tanti noi, a voglia. È bello però. Ho visto tanti posti, ho visto passando col treno. Sì. Tante cose belle. Cavolo, il treno che va a Cagliari. Si fa un bel paese, si fa. Passa anche a Oristano, passa. Ci sono un sacco di località, ci sono. A Iglesias, arriva di Bogo, dico, a Mogoro. Ho capito, è perché c'era nuovo. I treni nuovi di adesso sono. Ho capito. Quanto si paga il treno? Ma quanto si paga? Andare lì, sai cosa abbiamo speso? Quanto abbiamo speso? 75 euro. 72 euro. Cazzo! Faccio un motto! Cosa ti credi grande? In due persone, così è. Quanto spendi con la macchina? Cazzo! Ti fa un giro di conti, ci sono quei... come si chiama? Quei voli a pochi soldi per andare in continente. Però è così, se vuoi viaggiare è così. Adesso parti la mattina, faccio un esempio. Lì arrivi in tre quarti d'ora, secondo dove vai. E poi te ne rientri, non c'è bisogno che devi dormire fuori, mangi fuori, sei sempre fuori in continente, ovvio. E poi te ne rientri. Vedo un casino, e poi io col lavoro che fare io sono andato perché sono persone che ci portiamo bene, loro sono venuti qua, capito anche, e poi però ci siamo andati anche noi, già era poco contento già. Abbiamo arrossito anche il cammino che ha lui in paese. Capo, le pasta che buone che sono, ma fatte proprio artigianalmente. Sono messo a fare loro, poi. Gianni non c'è. Cosa? Ho detto Gianni non c'è. Gianni ha avuto proprio la microfono. Lui, che buona che simpatica, mamma mia, un sapore così, ma c'è un'unica pasticceria lì nel paese, cotta, ma lavorano veramente bene, un sapore quella roba. E anche io vorrei prendere qua, se oggi, qua da Protonella le ho comprate, e le portate giù in campagna, e buone lo stesso, là. Vabbè, sono anni e anni e anni che le compro lì. Di Begliate. Bella. Dove? Tortorella, tu, via Carducci, vicino alla casa, vicino alla chiesa con il Immacolato. Cazzo, lo conosci Tortorella? È una villa. Forse ho capito. No, io guardo che non va morito, sono troppo buona. E tu una volta se ti capita ti fa una passeggiata, vai via la Tortorella. È una traversa di via Grazia Deledda. Praticamente dietro la chiesa rimane, prova e poi mi torna la risposta. Già lo so quindi è via Carducci. Ci ho trafficato un po' di tempo a Reggende Bombole. Ecco lì c'è una pasticceria, prova e poi mi torna la risposta. E guarda anche la grandezza delle pasta. Non li ho mai presi lì la verità. Di solito li prendo sempre a Murito, li prendo. Adesso c'è una rivendita via Pascoli, che sono bebone. E tu prova tu, vedi un po', vedi la differenza, anche la grandezza della pasta. No, io le prendo lì. Tu conta, le pago un euro l'una, però le pesche, no? Se le conosci le pesche. E poi me le faccio riempire di crema, ma guarda, se ti rimani una e... Guarda, io ti dico che pranzi pure con una pasta così. Così rifazzi morito, viene di crema rifazzi dentro, non dici chi fa ne asciutti, le fa anche lui, le fa così, le fa. Vabbè, io ho la richiesta, sono lì nel balcone normale, se ne vuole la crema glielo devi richiedere, ma te la fa pagare comunque uguale. Ehi, che no, no, no, no, no, lui li fa proprio così, li fa. È per quello che le prendo lì un po' di volta, perché c'ha le pesche, cazzo, che sono una meraviglia. Sapore così buono, gà. Ehi, ehi, no, vabbè, io le prendo sempre lì, la Tortorella. Ho mangiato magari qualche pasta, qualche bar, però... ormai sono anni, anni, anni, che tu a pensa sono quasi 47, vabbè, 46 anni, fai 30, sì, andavo da piccolino, avrò avuto 10-12 anni, fatto lo conto. Vedo un bel danno, vedo. E quando attualmente via Grazia Deledda, la pasticceria che veda. In via Grazia Deledda dove? Onde era un po' di barazzo, di fronte a Nicolino, che sono della Garre. Ah, ehi. Quello lì era il figlio, cioè, ma mio padrino era quello che le faceva all'epoca. Coladuzza, Mario Coladuzza. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, c'è il bar. La pasticceria e la fainetta. Era fainetta, 10. Già ne prendevo perché facevo il forno a legna. Cazzo ne prendevo un bar. Andavo. La scena è Gianfranco, cazzo, ha perso un cazzo una miniera, gli ha lasciato il padre, una miniera di soldi. Gianfranco, Luciano, a Silvana. E Silvana già lo sai, non c'era più. Sì, è morta, lo so. Anche la mamma era morta. L'altra come si chiama, quella magrolina, se non mi ricordo. C'era lì ultimamente, tantissimi anni fa, con Gianfranco, Luciano e cognato. Manuela. Magrolina non più tanto, che c'è il robustista. Con Manuela lavorava. Già andava, cavolo. Poi anni addietro ancora c'era mia madre che lavorava con loro. Non me la ricordo. Allora al bar. Ehi, pure al bar. Vabbè, stiamo parlando io ragazzino. Sì, tantissimi anni fa. Tantissimi un bel anno. Sì, lavorava con loro, lavorava. Io mi ricordo loro, vabbè, quello sì. amici ormai che facciamo le paste con Gianfranco. Poi Gianfranco la sera andava e facciamo la fainetta. E Luciano faceva le pizze. Ciao, sì, me lo ricordo poi. Ma non mi risa buddubba, se no. Se no vendevano forte. Lo so. Ma so che l'ho venduto lì, Sì, lo so, dimmelo a Gianfranco quella. Non so quanto ne hanno ricavato, ma l'ho venduto. E un bel di dinà. Vabbè. Diciamo che se ne hanno anche sudato. È stata una giornata un po' così, una giornata più grana, è casino. Ma prendeva. Ho messo più che domani. L'ho trovata lì. A cosa l'ho trovata? L'ho trovata lì a Bonorba, l'ho trovata. E poi dopo Bonorba. E quanto era di viaggio in totale, di tempo? Tu pensa che siamo baciuti, ancora siamo baciuti. Alle 2.20 siamo baciuti, siamo giunti poco fa verso l'otto. Faccio l'otto qualcosa. Ma alle 2.20 dopo pranzo? Eia! Vabbè, quante ore sono di viaggio? Contale. Sì. Allora, sono le due. Ero alle 8, perché sono arrivato alle 8 e 10 qua, alle 8 e 20, che ora sono arrivato? Alle 8 e 10. È una cosa del genere. Pensa a quante ore ero in viaggio. Sì, ma aspetta, 70 euro a ritorno in due o a testa? A ritorno in due, tutto compreso. Ah, pensavo 70 euro a testa. Cioè 35 andare e 35 a tornare, allora va bene, dai. Sì, è cosa pensavo, è tutto. Anche il treno che va là, Siliqua. Ho capito. Avete fatto, ma è diretto, no? No. Ho capito, va bene. Hai fatto, ti sei fatto una giornata diversa dalle altre. Va bene, mamma mia, che stanchezza, però mi devo riprendere un po'. Già avevo una poverina, però già ci siamo divertiti, ma si veglia, tanto pure spendi minchiata di spende. Invece così ti è passata una bella giornata. Si conferma. A me mi piace, cioè già mi piace stare un po' così, dai. Sono stanco, mamma mia. Basta riposarti anzu, spegni i baracchi e ti riposi. Mi sono entrato un po' per... come con qualcuno. Dai, adesso chiudo. Buonanotte, dai, mi ha fatto piacere. Ok, buonanotte, ci sentiamo. Buonanotte a voi, ciao a tu, ciao, a domani. Che mi sono goduto un mezzo. Ciao. Ciao.